9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori, di nuovo da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come si diceva, proseguono i nostri incontri con i candidati premier. Oggi ospitiamo Antonio Ingroia. Di nuovo buongiorno Ingroia. Buongiorno a voi. Oggi tra l'altro Rivoluzione Civile, il movimento guidato da Ingroia che raccoglie una serie di partiti, presenterà le sue proposte economiche in una conferenza stampa. Ci faremo anticipare qualcosa e ne parleremo nel corso della trasmissione. Ma prima, dottor Ingroia, io ho una domanda sul gozzo da un po' di tempo. Allora, data 23 novembre, diario dal Guatemala. Parole sue, scritta Manent, non mi interessa essere candidato, non mi interessa un seggio in Parlamento. Che cosa è successo nel giro di un mese, perché poi ha deciso di candidarsi? Beh, allora, in realtà, leggendo tutto l'articolo, si avrà modo di capire quella conclusione da quale ragionamento proveniva. E veniva dal fatto che si ribadiva che io sarei stato candidato per questo, per quel partito. Allora, io ho detto sempre che non mi sarei mai candidato sotto le bandiere di un partito e che non mi interessava un seggio in Parlamento. Io davvero dico la stessa cosa, perché se fosse stato il mio obiettivo quello di avere un seggio in Parlamento, avrei accettato le diverse proposte, non è il caso di entrare nel dettaglio quali, diverse proposte che mi sono venute da più di un partito per accettare una candidatura in una lista. Ma a me questo non interessa. Da quali partiti? Non importa. Ma diciamo, no, dai, ce lo dica, no? Non ci importa, siamo, no? Non importa. Diciamo partiti che non PD, sono, che non sono, che non sono della coalizione Resistenza Civile, coalizione, nel raggruppamento Rivoluzione Civile, non importa quale. E proprio perché a me interessava tutt'al più, così poi è stato, un progetto politico nuovo. Un progetto politico nuovo, che è quello su cui andavo riflettendo in quei giorni mentre stavo in Guatemala, e quel progetto politico nuovo è stato Rivoluzione Civile, che è fuori dalle logiche di partito, al quale semmai alcuni partiti hanno poi aderito quando io ho lanciato la proposta politica. Questa la sua idea non ci ha detto i partiti, poi magari proviamo a cavarglieli fuori, non ce li vuole dire. PD, no, il PD gliel'ha proposto. Non lo dirò mai, neanche no, sotto tortura. Neanche sotto tortura. Veniamo ad altre questioni, però se vogliamo correlate. La questione dei magistrati in politica è un tema che è ancora in campo. Il vicepresidente del CSM, Vietti, ha detto fare politica portandosi dietro la toga è un controsenso. Magistratura democratica è stata durissima, anche esplicitamente nei suoi confronti. Io vorrei capire qual è la sua risposta e se lei valuta che sia opportuno in realtà introdurre una legge da questo punto di vista che regoli l'ingresso dei magistrati in politica. Ma guardi, io credo che il Parlamento deve essere un Parlamento che sia competente, ricco di professionalità e di contributi, debba essere aperto a ogni settore, a ogni competenza della società, e non vedo per quale motivo i magistrati debbano essere esclusi. Peraltro, insomma, abbiamo una storia lunga da Oscar Luigi Scalfaro a Cesare Terranova, per venire a tempi più recenti, Luciano Violante, Anna Finocchiaro, Mantovano, Tiziana Parenti, Gerardo D'Ambrosio, insomma, l'elenco di decine e decine di magistrati che su parti contrapposte nel centrodestra come al centrosinistra hanno dato il loro contributo, e credo che ai magistrati non si possa negare. Io non credo che debba esserci un problema relativamente all'ingresso dei magistrati in politica, è una ricchezza, lo ripeto. Altra questione semmai è il post attività parlamentare, su quella credo che occorra una disciplina. Per quanto riguarda la mia specifica situazione, beh, Ingroia fa sempre discutere, faceva discutere da magistrato e fa discutere in politica, e evidentemente se Ingroia fa discutere vuol dire che introduce qualcosa che non lascia indifferente. Si dimetterà se verrà eletto? No, io sono contrario alla dimissione del magistrato in politica, non ritengo di dimettermi. È stata una scelta legittima quella che alcuni magistrati hanno fatto, come anche Di Pietro e De Magistris, che fanno, aderiscono alla Rivoluzione Civile, anzi sono fra i fondatori di Rivoluzione Civile, e ci sono altri magistrati che non lo hanno fatto, perché io credo che c'è semmai appunto il problema del rientro in magistratura. Allora, su questo, certamente io non rientrerò mai a svolgere le stesse funzioni che so di procuratore a Palermo come le ho svolte prima di entrare in magistratura, perché capisco che questo determinerebbe critiche e polemiche, anche se su questo però il punto è che l'Italia ha fatto molti passi indietro, perché io ricordo che negli anni 70 un giudice antimafia come Cesare Terranova fece in modo assai valido il giudice istruttore, andò in politica come indipendente di sinistra nella lista del Partito Comunista Italiano, partecipò alla Commissione parlamentare antimafia e tornò a fare il giudice istruttore a Palermo, venne ucciso dalla mafia prima che portasse sino in fondo la sua seconda, diciamo, esperienza giudiziaria a Palermo, e non c'erano state certamente polemiche su Terranova, ma certamente l'Italia evidentemente è cambiata in peggio da questo punto di vista in questi 40 anni, perché dovrebbe essere normale un'attività parlamentare come attività di servizio che costituisce una tappa di un'attività professionale, di un imprenditore, come di un giornalista, come di un magistrato, perché io sono tendenzialmente contrario invece ai cosiddetti professionisti della politica. Io credo che debba esserci uno interscambio tra politica e società, ma ad ogni modo la situazione è quella che è. So che ci sarebbero polemiche infinite nell'eventuale rientro di Ingroia a fare il procuratore a Palermo, e quindi su questo mi assumo l'impegno, anche se preferirei che non dovesse dipendere una mia scelta, ma che ci fosse una legge, e per questo noi ci batteremo in Parlamento, che ci sia una legge che disciplini il rientro in magistratura. Se non viene eletto torna in Guatemala, in sostanza. Beh, quello sì, ma io non vengo eletto. Io vengo eletto, diciamo così, se dovessi decidere dopo il primo mandato parlamentare di non rinnovarlo, torno in Guatemala. Tornerebbe in Guatemala. Per chiudere la questione magistrati e politica, non possiamo non tornare sulla polemica con la Boccassini, dottor Ingroia, evidentemente. Ci siamo. Che cos'è che dice la Borsellino della Boccassini? Ma non ha importanza. C'è stata, diciamo, una polemica a distanza che non ho aperto io, non ho acceso io le ostilità, io ho replicato, capitolo chiuso, guardiamo avanti, non sono queste le cose che interessano. E non si è paragonato a Falcone, lei? No, io mai. Io ho semplicemente detto, quando mi venne chiesto se le ragioni per le quali venivo attaccato, ho semplicemente fatto un parallelo, peraltro sottolineando proprio, c'è nelle mie originali dichiarazioni, molto chiaro, senza volermi paragonare in alcun modo a Giovanni Falcone, registro che anche nei confronti di Falcone, quando iniziò a collaborare con Martelli al Ministero della Giustizia, venne attaccato da molti magistrati perché quella sua collaborazione al Ministero della Giustizia venne interpretata come un suo quasi mettersi in politica. Questo è stato, non c'era nessun, figuriamoci se potevo mai mettermi sullo stesso piano di Falcone. Dopodiché, vabbè, c'è stata una polemica, ma chiudiamola. E via, chiudiamo qua. Dunque, non ce lo vuole dire che cosa ha detto Borsellino della Boccassini? Chiudiamola. No, chiudiamola qua, benissimo. Va bene, la questione evasori, quindi veniamo al cuore anche del tema, dei temi che si stanno toccando, che sono quelli economici, che sono al centro della campagna elettorale, Balotelli a parte naturalmente, insomma, cioè, Balotelli e questione fiscale sono i due temi al centro della campagna elettorale. L'evasione, lei ha detto che con gli evasori ci vogliono gli stessi strumenti che per i boss mafiosi, che cosa intende nello specifico? Beh, io dico che in realtà la caccia all'evasione fiscale non si è fatta mai in Italia. Si è detta, si è promessa, ma non si è mai realizzata. Allora io dico che si può utilizzare nei confronti degli evasori fiscali. Ricordiamo che secondo le stime ufficiali si tratta di almeno 120 miliardi di euro l'anno di mancato gettito a causa dell'evasione fiscale, di usare nei confronti degli evasori fiscali, come nei confronti dei corrotti, le stesse procedure che si utilizzano per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni dei mafiosi. L'idea è di costituire un'agenzia nazionale che chiameremo l'Alto Commissariato per la ricerca e la confisca dei patrimoni illeciti, che svolgeranno un'indagine su coloro i quali sono indiziati, come si fa per la mafia, quelli che sono indiziati di grossa evasione fiscale. Stabiliremo, diciamo, un tetto. Che tetto immagina? Francamente su questo lo diremo oggi nella nostra conferenza stampa con gli esperti in materia, diciamo così. Sul tetto stiamo lavorando, però certamente, diciamo, parliamo di evasione fiscale robusta e significativa tale da poter individuare poi dei patrimoni da confiscare. Quindi grossa evasione fiscale, o corrotto, o indizi di evasione fiscale o indizi di corruzione. Appena vi sono questi elementi, si inizia una investigazione di questo ufficio composto da magistrati, finanzieri e funzionari dell'agenzia delle entrate, che individuano i patrimoni riferibili a questa persona, che siano riferibili o perché a lui intestati o intestati ai suoi familiari o a suoi prezzanomi, come si fa esattamente con la mafia. Dopodiché, se c'è una sproporzione fra i patrimoni effettivamente riferibile alla persona e il reddito dichiarato, beh, c'è un secondo indizio significativo: si può chiedere il sequestro, vengono sequestrati questi beni, l'incolpato ha 2 mesi di tempo per dimostrare la provenienza lecita. Se la dimostra, inversione dell'onere della prova, inversione dell'onere della prova come le misure di prevenzione antimafia. Quindi questa la vostra posizione. Ecco, sempre dal lato fiscale. Mentre dall'altro lato Silvio Berlusconi propone il condono fiscale, il condono tombale. Questo, diciamo, è quello che ci mette, dimostra quanto siamo alternativi noi a Berlusconi. Che cosa immaginate dal lato calo delle tasse, taglio dell'IMU voi? Quindi noi siamo per l'abolizione dell'IMU. Noi siamo per completamente? Sì, per un'abolizione. 24 miliardi, eh? Un'abolizione dell'IMU totale, la quale però sia sostituita da una patrimoniale. Quindi sostanzialmente noi ripristiniamo l'IMU soltanto per i redditi, per i più ricchi, diciamo così. Perché è un IMU, invece con IMU che va su tutti i contribuenti, va soltanto sui contribuenti di una certa fascia e per i patrimoni che siano al di sopra di 1,5 milioni di euro. Questo un IMU che sia progressivo e proporzionale, un IMU che si applichi anche agli immobili, al patrimonio immobiliare commerciale della Chiesa Cattolica, delle banche, delle fondazioni bancarie, e in questo senso io credo che si possa i conti tornano. C'è una certa convergenza da questo punto di vista col PD, mi sembra di capire, cioè una tassazione più alta di fatto per i grandi patrimoni immobiliari e una riduzione con magari anche con un sistema di detrazioni per chi ha per i redditi più bassi. Sì, ci sono dei punti di contatto. Non mi è ancora chiaro se il PD abbia intenzione di introdurre una patrimoniale o meno. Noi certamente sì, e poi noi siamo comunque per l'abolizione, cioè per essere chiari, siamo per l'abolizione dell'IMU che viene reintrodotta sostanzialmente soltanto per i patrimoni più dei ricchi, diciamo così. 800240024 per intervenire in diretta, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Ci fa notare un ascoltatore, Placido, proprio via Twitter, dice: ma insomma, forse Ingroia non lo sa, c'è già Equitalia che picchia duro sugli evasori, insomma, e in realtà l'inversione dell'onere della prova esiste già. Beh, ma noi non vogliamo soltanto inseguire gli evasori. Noi vogliamo individuare il loro patrimonio e confiscarli, che è cosa, diciamo, diversa e ancora più ambiziosa, nel senso che evasione fiscale e corruzione gravano intorno ai 200 milioni di euro, 200 miliardi di euro annui. Altrettanto 200 miliardi di euro ammontano circa il fatturato delle mafie, il che significa 400 miliardi di euro annui. il debito pubblico è 2.000 miliardi di euro. Non dico che noi non possiamo promettere, figuriamoci, di riuscire a confiscare ogni anno l'intera cifra dell'economia della criminalità organizzata, ma su questo puntiamo. Quindi non è soltanto, non è tanto l'individuazione dell'evasore fiscale, ma quello diventa una premessa per poter poi acquisire i patrimoni illeciti di cui non si è dimostrata la provenienza lecita. Voglio sentire qualche ascoltatore, iniziando da Adriana che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Prego, breve mi raccomando. Brevissima, brevissima. Mi è capitato di recente di leggere la posizione del dottor Ingroia su femminicidio e PAS e devo dire che sono abbastanza, diciamo, perplessa. Io sono presidente di un'associazione che si occupa di parità genitoriale e movimento femminile. Allora, il femminicidio, sinceramente, secondo me è una discriminazione positiva, perché domando al dottor Ingroia: se una donna uccide un'altra donna, o se un omosessuale uccide un'altra donna, o se una donna viene uccisa durante una rapina, chi è che decide se è femminicidio oppure no? E ancora, il femminicidio non è forse una discriminazione positiva, quindi in aperto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana? E poi, per quanto riguarda la PAS, ad oggi, che uno sia a favore o sia contro, è l'unico sistema per far sì che il bambino abbia diritto a entrambi i genitori, cioè nel senso che non sia plagiato da uno dei due genitori. Va bene, non parliamo di PAS, però come facciamo a difendere il diritto del bambino ad accedere, a frequentare pariteticamente madre e padre durante le separazioni? Perché non si possono poi togliere, diciamo così, i problemi se non si pensa a delle soluzioni alternative che siano veramente valide. Grazie. Grazie Adriana, sentiamo anche Ferruccio che ci chiama da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno dottor Ingroia. Io volevo proporre, invece di, se ho capito bene, di creare una nuova struttura per meglio perseguire gli evasori fiscali, magari scendere un livello, voglio dire, da un punto di vista delle verifiche, partendo da quella che è la geografia produttiva del nostro paese, che è fatta di piccola e media industria e di grandissimi servizi. Quindi se tutti i cittadini avessero la possibilità o l'opportunità di essere colui che verifica che vengano correttamente esperite tutte quelle attività necessarie affinché la gente paghi il giusto da un punto di vista delle tasse, mi riferisco banalmente allo scontrino, banalmente alla fattura del dentista piuttosto che del professionista che alcune volte si nasconde, no? e non fa quello che deve. Forse in questa maniera, nel vantaggio dei cittadini, è evidente, perché potrebbero in teoria portare in detrazione tutti i costi che devono subire durante l'anno, forse in questa maniera una, se non dico integralmente, ma una larghissima fetta della potenziale evasione sarebbe sotto controllo e l'apparato finanza, agenzia delle entrate che esiste potrebbe meglio dedicarsi a quelle attività più specifiche, più difficili da perseguire. E lì, voglio dire, ci sarebbe sicuramente un doppio effetto. Grazie Ferruccio. Sentiamo le risposte del dottor Ingroia a partire dall'ascoltatrice di Milano, Adriana, se non erro, mi sembra si chiamasse. E poi andremo in pausa e risponderemo anche a Ferruccio. Ingroia. Ma per quanto riguarda il femminicidio, è una... In quasi tutti i paesi del mondo si va introducendo questa nuova figura di reato che non è un fatto di discriminazione, è un fatto di maggiore tutela che nasce dal fatto che si vanno moltiplicando nel mondo i delitti che hanno per vittima una donna in quanto donna. Questo è il punto, cioè non è che ogni delitto nei confronti di una donna rientra nella figura del femminicidio e quindi si pone il problema se lo commette una donna. Il punto non è chi lo commette, ma perché viene commesso. Se cioè nel delitto in sé c'è una componente nel movente del delitto, una componente di discriminazione. Per questo mi pare giustificato che ci siano tutele rafforzate. Sulle altre questioni e soprattutto sulle questioni relative al PAS che si diceva, noi su questo abbiamo un programma, abbiamo espresso delle posizioni, ma abbiamo un programma che su alcuni temi siamo sempre aperti a calibrare, come dire, il tiro. Siamo disponibili ad ascoltare tutte le indicazioni dei cittadini. Rivoluzione Civile, come ho sempre detto, è una casa con le porte aperte e quindi ascoltiamo lì dove non abbiamo posizioni di intransigenza totale. Su questo punto capisco le osservazioni, ci rifletteremo su, possiamo benissimo calibrare il tiro. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 9 in punto l'hashtag su Twitter. Stiamo incontrando Antonio Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile. Ingroia, ancora una domanda sull'evasione, abbiamo sentito prima della nostra pausa, a proposito appunto della possibilità di estendere il contrasto di interessi, insomma la possibilità di portare in detrazione scontrini piuttosto che fatture ricevute e via dicendo. Beh, questa diciamo è una proposta dell'ascoltatore che mi sembra interessante, la valuteremo. Come dicevo, il nostro non è un programma politico preconfezionato e calato dall'alto. La novità di Rivoluzione Civile è che è la rivoluzione dei cittadini, e quindi infatti sul nostro sito c'è la possibilità di prendere contatti e inviare proposte per un ampliamento e integrazione del nostro programma. Ho un paio di domande io adesso, e sono domande più politiche. Allora, inizierei dal rapporto col Partito Democratico. Cos'è questa storia che l'hanno offerto due senatori mascherati? Beh, insomma, non vorrei continuare con questa telenovela. Però, insomma... Vabbè, è un fatto che ci sono stati dei... Quindi, raccontiamolo una volta per tutte e poi no. Sì, ma... Tutto inizia quando io torno dal Guatemala e decido di avviare questa nuova esperienza politica. Nell'avviare questa nuova esperienza politica, siccome Rivoluzione Civile ha l'ambizione appunto di cambiare l'Italia, non si può cambiare l'Italia se non dall'interno del Parlamento e governando il cambiamento. Per cui la nostra proposta era la proposta di governare con chi porta avanti posizioni, programmi, obiettivi comuni o comunque analoghi al nostro. Sicuramente andava individuato e ho individuato il centrosinistra come interlocutore privilegiato, e per questa ragione fin dal primo giorno ho scritto una lettera aperta indirizzata a Bersani, poi ho fatto un appello indirizzato a Bersani stesso che non ha avuto nessuna risposta, poi l'ho anche più volte cercato personalmente senza ancora ricevere alcuna risposta. Evidentemente, cioè, non c'è ancora riuscito a parlare al telefono con Bersani. Non ci siamo mai parlati, se non una volta incontrati per caso in uno studio televisivo. Col risultato che evidentemente il PD ha dimostrato del tutto disinteresse nei confronti di Rivoluzione Civile. Posizione politicamente incomprensibile, se non per quello che poi abbiamo dovuto amaramente registrare, cioè che in realtà il PD non era interessato alla Rivoluzione Civile perché aveva già stretto un accordo con Monti. E quando, peraltro, probabilmente questo disinteresse nasceva da una sottovalutazione di partenza. Cioè, lei dice che l'hanno proprio già fatto l'accordo con Monti? Beh, Bersani lo ha rivelato due giorni fa, quando ha minacciato a Monti che salta l'alleanza post-elettorale. La minaccia di far saltare l'alleanza post-elettorale presuppone un accordo pregresso, non si spiega altrimenti. Non ci vuole essere un investigatore, un pubblico ministero antimafia per 2 più 2 fa 4, come si dice. Comunque Bersani, il PD si è rivelato del tutto disinteressato, mentre invece Nichi Vendola in quei giorni cercava di tenere aperto questo dialogo e invitava Bersani ad aprire il dialogo con noi. Bersani non se n'è dato per inteso, è andato avanti per la sua strada. Infatti, quando avrebbe potuto stabilire un contatto con me, lui preferiva incontrare Monti. Lo scrivono i giornali, non è stato mai smentito. Dopodiché, quando i sondaggi evidentemente hanno cominciato a far preoccupare i vertici del PD, il PD calava, la Rivoluzione Civile cresceva e si andava verso rischi di pareggio soprattutto per il Senato, quando però si era ancora in tempo per un eventuale accordo di programma e quindi di governo, quello che è venuto dal PD, il PD mi ha cercato attraverso degli emissari, diciamo così, e la proposta però che mi è stata fatta è stata una proposta deludente da vecchia politica, da prima Repubblica direi, neanche da seconda Repubblica, e cioè la proposta del cosiddetto patto di resistenza. Io sono un non professionista della politica e ragiono come cittadini, me lo sono fatto spiegare prima perché non sapevo neanche cosa fosse il patto di resistenza. E il patto di resistenza praticamente era questa proposta che noi rinunciassimo a presentare liste al Senato per regalare sostanzialmente questi voti al PD. E in cambio però il PD non era disponibile ad accettare nessuna delle nostre condizioni, che era accettare il nostro convergenza sulle nostre posizioni di programma e assunzione di impegno pubblica davanti agli elettori che il PD non avrebbe mai fatto un governo con Monti, ma l'avrebbe fatto eventualmente con noi. Non è stata accettata questa proposta, invece è stata fatta. Invece la controproposta è stata una controproposta, come dicevo, un po' da prima Repubblica, cioè un paio di senatori, li chiamo io mascherati, e cioè un paio di senatori ospitati nella lista del PD che però non dovevano essere riconoscibili come senatori di Rivoluzione Civile, quindi doveva essere un patto di resistenza occulto che non doveva essere dichiarato pubblicamente. E non si capisce per quale motivo. L'unica spiegazione plausibile. Ma è che avevano già identificato le figure, tra l'altro. No, no, non dovevano essere poi concordate insieme. L'unica spiegazione di questa stravagante proposta dei senatori mascherati è che evidentemente il PD si vergognava agli occhi di qualcuno di un eventuale accordo con noi. E allora, siccome è escluso che potesse vergognarsi di questo patto con i suoi elettori, visto che c'è molta vicinanza fra l'elettorato del PD e l'elettorato di Rivoluzione Civile, l'unica spiegazione è che si vergognava con altri. E in questo caso ritengo che gli altri di cui si dovesse vergognare per l'accordo con noi si chiamasse Monti, perché il PD voleva prendersi i nostri voti e magari con i nostri, tra virgolette, senatori, ma non riconoscibili come nostri perché mascherati, dovesse poi andare a fare l'accordo finale con Monti. A queste condizioni noi non potevamo starci. Simone ci chiama da Lucca, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Ingroia. Una domanda, allora, nella mia provincia, ma un po' in tutta la Toscana, stanno aumentando i furti nelle abitazioni, ma furti proprio con violenza, cioè persone legate, persone bloccate nelle proprie case, picchiate per farsi dare soldi e quant'altro. Mi chiedo, nel vostro programma, visto che anche le forze di polizia non hanno soldi per la benzina per le auto, no? I poliziotti devono pagarci i fanalini per far girare le auto, mi chiedo se nel vostro programma c'è qualcosa per tutelare di più il cittadino sotto questo aspetto. E poi la seconda cosa veloce, io sono nel settore del commercio, mi trovo spesso a combattere concorrenza sleale con contraffazione di marchio. Chiedo se anche su questo aspetto qua c'è qualcosa di forte da parte vostra per combattere la contraffazione del marchio. Grazie tante. Ingroia, prego. Allora, innanzitutto occorre maggiore sicurezza, e perché ci sia maggiore sicurezza occorre che le forze di polizia abbiano uomini, mezzi e investimenti. Su questo abbiamo registrato negli ultimi anni un intollerabile taglio progressivo sia al comparto sicurezza come al comparto giustizia, rendendo inefficienze la giustizia e la sicurezza, e certamente noi vogliamo invece rilanciare anche una razionalizzazione delle spese. Ci sono troppe scorte inutili a chi non rischia nulla, molti uomini politici usano la scorta come status symbol, mentre tanti poliziotti, soprattutto nelle terre di frontiera, agiscono in situazioni di grave difficoltà, ma un po', diciamo, dappertutto in tutta Italia. Io credo che debba essere quindi riequilibrato il modo in cui vengono spesi i fondi messi a disposizione della sicurezza, e dall'altro lato va investito di più su sicurezza e tutela del cittadino. Contraffazione? Sulla contraffazione, anche su questo c'è un'eccessiva tolleranza da parte di un'Italia troppo abituata a convivere con l'illegalità. Su questo ci vuole più intransigenza. Chi erano questi emissari del PD? È già stato reso pubblico. Ho una domanda sulle sue liste adesso, anzi un paio di domande sulle sue liste. Innanzitutto questo Nello Di Nardo, capolista in 3 regioni, viene dall'Italia dei Valori, ma si è fatto anche CCD, UDC e UDEUR nel suo passato. Ed è uno favorevole al condono edilizio. Ma guardi, io ieri sono stato nel mio tour a fare le elezioni, nel tour elettorale, e sono stato in Basilicata, l'ho incontrato e lui mi ha detto che querelerà chiunque dica che lui è per il condono edilizio, è sempre stato contrario al condono edilizio, è quello che lui mi ha detto, non ho motivo di non credere. Gli dica di non querelare me a questo punto, perché era solo una domanda per lei. E quindi queste dichiarazioni da dove escono fuori? Perché in realtà lui delle cose le ha dette. Ma comunque, in questi termini. Quello che conta è che certamente noi, Rivoluzione Civile, è in modo fermo e intransigente contrario a ogni forma di condono. Anzi, noi siamo il movimento che introdurrà principi di responsabilità, perché ciascuno sia responsabile di ciò che commette, mentre in Italia è prevalsa sempre la politica della irresponsabilità: responsabilità penale, responsabilità contabile, responsabilità amministrativa, responsabilità politica e così via. E quindi chiunque anche dovesse oggi trovarsi nelle liste di Rivoluzione Civile sa che questa è la posizione di Rivoluzione Civile. Se dovesse avere sbagliato, espresso posizioni sbagliate nel passato, dovrà cambiare idea. Sempre a proposito delle liste, secondo i calcoli che sono stati fatti nei giorni scorsi, se non erro proprio dal professor Dalimonte, dalle vostre liste in sostanza, rispetto a, per esempio, a quelle del PD o dello stesso PDL, insomma alla fine negli eletti risulterebbero pochissime donne, perché naturalmente dipende dalle percentuali che prenderete, come ovvio, però insomma... Pochi giovani, perché in realtà tra i capilista ci sono molti attrezzi dei partiti che vi compongono. Ma non so come siano stati fatti questi calcoli, ma mi trovo costretto a smentirlo, non è affatto vero. E noi abbiamo, per fare un esempio, capolista qui a Roma, Lazio 1, subito dopo di me, che sono, tra parentesi, il più giovane fra i candidati leader, fra i candidati premier, e abbiamo Ilaria Cucchi, che è donna e abbastanza giovane, in Emilia Romagna, che è uno delle roccaforti dei partiti, diciamo così, tradizionali, che aderisce a Rivoluzione Civile. Abbiamo capolista subito dopo di me Giovanni Favia, che è trentenne. E abbiamo candidate come Gabriella Stramaccioni, abbiamo candidate Sandra Murri, abbiamo candidate Giovanna Marano, abbiamo tantissime candidate. Comunque noi abbiamo più donne, abbiamo fatto proprio per rispondere a questa contestazione del tutto infondata, abbiamo fatto una verifica, una comparazione, noi abbiamo più donne candidate della lista Monti e del PDL, quindi non so da dove si prendano questi dati. Ci scrive malizioso un ascoltatore, un'ascoltatrice, perché via Twitter, naturalmente, insomma, dal nome su Twitter non si intuisce se è un uomo o una donna, però ci scrive malizioso: temo che non volere l'accordo PD Rivoluzione Civile fosse il colle, più vari interessi diffusi. Lei che cosa pensa? Potrebbe esserci Napolitano dietro il mancato accordo tra PD e Rivoluzione Civile? È un'interpretazione maliziosa, come tutta l'interpretazione legittima, ma mi rifiuto di credere che ci siano interferenze dirette da parte del Quirinale sulle dinamiche politiche dei partiti. Sarebbe grave se così fosse. Salvatore ci chiama da Roma, buongiorno. Salvatore? No, è caduto. Allora sentiamo Claudio che ci chiama sempre da Roma. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Allora io volevo portare l'attenzione... Breve, mi raccomando, Sì, sì, sì, sul problema dell'equiparazione del matrimonio gay con i non gay, eccetera. Io vorrei dire una cosa, ma non sarebbe veramente ora di parlare dei diritti dell'individuo, e questo permetterebbe di bypassare il problema se a contarle il matrimonio sono due persone dello stesso sesso o meno, cioè ristabiliamo i diritti dell'individuo, no? In quanto tale, in uno stato laico, perché io come individuo non devo avere gli stessi diritti di chi vive in coppia, cioè di chi è sposato? Quindi togliamo questo privilegio a chi tiene famiglia, per così dire. Ecco, questo mi sembrerebbe veramente un passo in avanti. Grazie Claudio, come la vedete voi da questo lato, Ingroia? Assolutamente d'accordo l'ascoltatore, noi siamo favorevoli al riconoscimento delle unioni civili delle coppie omosessuali, incluso il diritto al matrimonio e all'adozione, e d'accordo con quanto diceva l'ascoltatore. Oggi ho letto una grave denuncia di Nicky Vendola che dice, che rivendica giustamente il diritto a poter uscire di casa la sera, e la situazione difficile dei gay in Italia. Noi siamo assolutamente dalla parte dei gay e per il riconoscimento a ogni loro diritto. Fact checking in diretta degli ascoltatori su Twitter ci fanno notare che non è lei il candidato più giovane, Giannino ha 2 anni meno di lei. Ma ne dimostra 10 di più. Là, che cattiveria, il nostro Oscar, per carità. Per carità. Allora, sentiamo Salvatore che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei fare una domanda politica, insomma. Voleva fare una domanda politica, ma la linea di Salvatore è caduta. Sentiamo Mario che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere a Ingroia se non è troppo comodo non essersi dimesso dalla magistratura e proporsi con un paracadute. Grazie. Grazie Mario. Breve Ingroia. Beh, comodo, non credo che sia un fatto di comodità, è un fatto di diritto del magistrato di esercitare un diritto costituzionale e poi di non distaccarsi dal lavoro nel quale si è creduto per decenni, dopodiché si può tornare a fare il magistrato ma in condizioni tali che non siano appannate dal mandato parlamentare. Una domanda sugli ultimi atti di campagna elettorale di Silvio Berlusconi, a partire appunto da questa questione della restituzione dell'IMU. Che giudizio dà? È preoccupato dal recupero di Berlusconi nei sondaggi? Beh, io sono convinto che il recupero è un recupero soltanto temporaneo, si fermerà lì. Mi rifiuto di credere che dopo 20 anni... di disastri, di bugie in campagna elettorale, di promesse stravaganti e di sogni prospettati agli italiani in campagna elettorale, poi smentiti ogni volta che Berlusconi andava al potere. Mi rifiuto di credere che gli italiani, dopo tanti anni in cui si sono ritrovati sempre più poveri perché Berlusconi pensava di ingrassare le sue imprese dal suo impero finanziario, che gli italiani si facciano prendere in giro da Berlusconi, e quindi non credo che accadrà. È una cosa che si è sentito spesso, che si è sentita spesso dalle parti dei partiti che adesso compongono, appoggiano Rivoluzione Civile. Lei considera Berlusconi ancora un pericolo per la democrazia, come abbiamo sentito dire spesso appunto da quelle parti? Ma io ritengo che il berlusconismo abbia determinato un grave arretramento del modo d'essere dello Stato nel rapporto fra Stato e cittadini. uno Stato in cui si è determinata una concentrazione del potere nelle mani di pochi, una forte lesione del principio del diritto di uguaglianza. Gli italiani oggi sono meno uguali, c'è una maggiore diseguaglianza perché c'è una fascia di privilegiati, e quella fascia di privilegiati è il fossato tra i privilegiati, i cittadini di serie A e i cittadini di serie B, si è approfondito molto, e Berlusconi ne è il principale responsabile, ma non solo di questo. Sono rimaste macerie dello Stato di diritto e Berlusconi è responsabile. Brevissimamente una risposta a un altro ascoltatore. Giacomo dice: non pensa che appoggiando il Partito Democratico avvantaggi inevitabilmente il Cavaliere? Ma io credo invece il contrario. Io credo che avere una forza politica che sia coerente e intransigente per una politica di centrosinistra e rafforzarla possa costituire un polo di attrazione per il PD, per impedire che il PD vada nelle braccia della destra, e cioè Monti, perché Monti è destra così come è destra Berlusconi. Ultima, brevissima, ci chiedono in molti dei rapporti col Movimento 5 Stelle. Grillo è stato molto duro con lei. Da quel lato che cosa pensate di fare? Ho una domanda io. Voi sareste favorevoli a un referendum sull'euro, così come il Movimento 5 Stelle? Non ne vediamo la necessità, l'esigenza. Io credo che l'Italia deve rimanere saldamente dentro l'euro, deve però cambiare le condizioni in cui restarci dentro. Oggi noi siamo dentro l'Europa, che però è un'Europa asservita al potere finanziario dell'alta finanza internazionale ed europea. Il fiscal compact costituisce un cappio al collo dell'economia nazionale e noi dobbiamo rinegoziare il fiscal compact. E riguardo al Movimento 5 Stelle e Grillo, due cose. Col Movimento 5 Stelle abbiamo molti punti in comune, Grillo si comporta come un mestierante della politica. Come un mestierante della politica. Chiudiamo così, grazie ad Antonio Ingroia, grazie a Gloria Guerrera in assistenza, grazie a Valerio Rocchetti in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Una nota, mi dissocio pubblicamente dalle parole di Ingroia sui 10 anni in più dimostrati da Giannino. Buona giornata. Facciamo a tutti. Quattro. Facciamo buona quattro. Giornata. Radio 24. La passione si sente.